tutti, benvenuti a Nartra Radio Roma. Oggi è lunedì, non so di quale giorno sia, ma è sicuramente un lunedì. È febbraio, fa molto freddo e io me ne sto a casetta a trasmettere per voi una ennesima puntata di Nartra Radio Roma. Puntata numero 2 della mia speciale serie sulle Net Label. Net Label parte 2. E stasera ci andiamo a studiare la fantastica Noise Beat Net Label direttamente da Caserta. Un saluto a Lello Beast e a Gaudio, i produttori, i fautori, i completatori, i produttori, gli inventori di questa etichetta che licenza solo sotto Creative Commons. Ripeto, CC Creative Commons. Questo artista che, che avete sotto la mia voce ancora era Craik. Lui è il primo artista con cui ho scoperto la Noise Beat Net Label. Questo è uno dei primi album, mi sembra il terzo, della Noise Beat Net Label. E questa era la traccia Red Eyes. Occhi rossi per voi, e si continua così. Non vi dico chi vi metto adesso, ma è sempre Noise Beat Net Label. Questo è Mr. Cocot. E salutiamo in chat a Mr. Gasperino dall'altra parte della quinta e Mr. Oisela, slave number one. Ora Noise Beat Net Label. E mi dicono dalle quinte: se la mia voce si sente bene, vi chiedo 1 2 3 1 2 3, Mr. Gasperino, com'è la mia voce nell'etere? Sensuale? Palpabile? Vi potete anche toccare mentre ascoltate la mia voce. Comunque si continua così in Nartra Radio Roma. Eccomi di nuovo, un po' di problemi tecnici che qui ci stanno sabotando. Sicuramente sarà qualche inviato della CIA che non vuole che noi trasmettiamo. Comunque, vi ripeto, noi stiamo adesso esaminando le varie tracce di molti, molti, molti artisti che vediamo sulla Noise Beat Net Label. E comunque adesso andremo ad ascoltare l'altro rappresentante della Noise Beat Net Label, si chiama Gaudio. Ha fatto un album che è uscito esattamente il 16 aprile 2010, si viene intitolato Jazz Extend Plays, un po' di Deep House Soulful. Ritorna Gaudio con un nuovo lavoro, Jazz Extend Play, che contiene 3 tracce Deep House caratterizzate da suoni caldi, soulful e no jazz. Beat and groove sono morbidi in 4/4, arricchiti da parti più elaborate. Il tutto si avvicina all'ambiente musicale dell'house anni 90, con l'evoluzione elettronica attuale. Questo è Gaudio e questa è Evolution Original Dub Mix. Nartra Radio Roma. Sta. 10 di ritorno dalla traccia molto lunga, 6 minuti e 24. Era, ripeto, Gaudio con la release numero 3 della Noisebeat Net Label, un po' di Tech House, House Full, Fools Fans Friends. Con questo freddo vi farò riscaldare le membra. Ragazzi, ragazze, tutte quante andate a cliccare www.nartraradioroma.org e ascoltate la trasmissione che sta andando in diretta in questo istante e andrà in replica il venerdì dalle 6 alle 7 e mezza su Fuso Radio. E adesso, siccome ci siamo ascoltati Mr. Gaudio con la traccia Evolution Original Dub Mix, adesso ci andiamo ad ascoltare l'altro compagno, il nostro amico Beast. Lo trovate comunque da qualunque parte. Ragazzi, vi faccio ascoltare queste Net Label Creative Commons, perché vi deve entrare in quella testa che la musica Creative Commons è musica di qualità, ma diversamente distribuita. Noi siamo il futuro, we are the future. Un saluto a Mr. Campo, a Mr. Brontolo, a Mr. Gasperino e un saluto a tutti quelli che adesso sono di fronte al computer e mi stanno auscultando. Continuiamo qua sotto di noi, Soul and Flute, sempre Gaudio, Sweet Dream. Dopodiché vi farò passare una bella tracciona di Mr. Beast. Mr. Cogot vi saluta e vi dà la buona continuazione su Nartra Radio Roma. E lui ripeto, è Gaudio con la sua release direttamente da Caserta, questo album intitolato Purple Haze Extend Play. Lo potete trovare sul loro sito www.noisebeat.com. Là c'è tutto: home, release, artist, podcast, DJ set, photo gallery, contact us, partners. Questo è Noisebeat Net Label e lui era Gaudio. Passiamo adesso a un'altra release direttamente su Noisebeat. Lui è Opac, questo è un genere che va sulla techno, sulla minimal. La città di provenienza è Napoli, Bologna. Questa è la sua seconda release, Pasquale Barra. Secondo LP per Opac in collaborazione con Uber T, le tre tracce sono Pulse, Plus e Tab Fritz. Tech house con influenza deep e in alcuni punti sonorità old molto intense. Questo è per voi solo Annartra Radio Roma. Annartra Radio Roma. Annartra Radio Roma. Annartra Radio Roma. Annartra Radio Radio Roma. Un'altra Radio Roma è tornato, Mr. Cocket è tornato. Ragazzi, per i meno attenti vi voglio dire chi era questo artista. Lui era Opak. Secondo l'EP per Opak in collaborazione con Hubert T, le tre tracce sono Pulse, Blues, Dub Freeze, Tech House, con influenze deep e in alcuni punti sonori abbiamo una old molto intensa. Vi ricordo www.noisebeat.com, andate lì, release, artisti, podcast, DJ set, photo gallery, contact as partners. Scaricate tutte le release in free download e se volete dare qualcosa, dategli qualcosa. Perché Noisebeat merita, Narta Radio Roma merita, we are the future! Ultime notizie, gelo, allarme gas, sia centrale a olio, paesi isolati, camionista muore su tir, Roma, scuole chiuse, foto, Milano, polemica, esercito, chiede soldi ai comuni e noi ci ascoltiamo la musica. We'll be right back. comunque sempre Noise Beat Net Label. Sotto la mia voce è appena passata adesso la traccia di Da Bemo. La traccia era Blessed Love, dall'album di Dub Electronica e Dubstep, direttamente da Napoli. Esordio per Da Bemo su Noise Beat con la prima release del 2010. Charlatan Dub Extend Play è composto da tre tracce: Blessed Love, Dubbishi e Trey Knight. Suoni elettronici, effetti e bassi profondi mostrano dal primo ascolto una rielaborazione in chiave mediterranea del dub elettronico di matrice nord europea. Caratteristica fondamentale della musica di Da Bemo, Da Bemo, Da Bemo, Da Bemo. Da da da bemo, da bemo, da bemo, da bemo, da da da bemo, da bemo, da bemo. Noise Beat, da bemo, da bemo, da bemo, da bemo, da bemo, da bemo. Nartra Radio Roma. Un salutone a Slave One, Alessio Oissela, diciamo a tutti che è aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto. Adesso mi sentite chiaro e forte, qui è Mr. Cocotte che saluta Slave Number One, Alessio Oissela da Roma, e lo potete trovare adesso sul nuovo sito, andate a cercare Alessio Oissela. Ascoltate, producete, appetizzatevi, e qui è Noise Beat Net Label. Sotto la mia voce lui ritorna alla dubstep su Noise Beat con Dub Ash, che presentano il loro primo LP composto da 4 tracce, What Are You Talking About e Platform 5, che è sotto la mia voce. Sono caratterizzate da bassline cupe e sintetiche su ritmiche pernottiche e corpose tipiche della dubstep di ultima generazione. Leggermente più morbide sono Al Ganjaman e Ganja Song, caratterizzate da influenze roots and dub. Free download e enjoy Noise Beat Net Label. Dub Hush da Bologna, release number one su Noise Beat Net Label. E adesso, a grande richiesta, il primo jingle di Nartra Radio Roma fatto da Mr. Cocotte, che era il jingle numero 02, perché il primo è stato fatto da Mr. Brontolo. Per voi, Mr. Cocotte, urlo jingle a grande richiesta.

Salutiamo tutti questi che ci ascoltano. Salutiamo il Roscio Matteo da Roma. Salutiamo Pasquale Gallo. Salutiamo Ottavia Hort. Salutiamo Pino Gerace Bis. Salutiamo Resonance Brighton. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano, che non ci ascoltano. Questa è Nartra di Roma e sotto la mia voce avete Domino, genere techno, tech house da Caserta, prima release, nuova release su Noisebeat.net, label per Domino, che con Space Invaders Extend Play omaggia il celebre videogame, due tracce in stile tech house con evidenti influenze electro, deep e acid. Questo è Noisebeat.net label, io sono Mr. Cogot, sono le 9.11. Ma quale 9.11, rincoglionito? Sono le 10.11. Andata Radio Roma. E adesso Giappawa! Giappawa! Giappawa con la traccia Booyah. Lui è Giappawa, genere dubstep, città adesso vive a Londra. DJ e producer, inizia a mettere dischi nel 96 suonando hardcore techno progressive. Lui era Giappawa, questo era l'album su Noisebeat intitolato Giappawa, titolo Bass Philosophy Extend Play. Adesso per voi, dalla compilation artisti vari di Caserta Elettronica, Noisebeat.net label, ACG Digidub, e questo è Babylon System, Redead, at Radio Roma, Radio Roma. Sandro Chiaravalle, direttamente su Noisebeat. Questa era la compilation di musica elettronica insieme alla Noisebeat ed Efedrina Net Label, due Net Label, Noisebeat di Caserta, Efedrina di Roma. Ringraziamo tutte e due le etichette. Questa era Efebeat volume 1, uscito il 6 novembre 2011, compilation artisti vari. Noisebeat e Efedrina si uniscono e mescolano i propri artisti e la propria musica, danno vita a una prima compilation in stretta collaborazione dedicata alla musica techno electro. Efebeat volume 1. Questo sotto la mia voce è Sandro Chiaravalle, 4Beat. Connessione musica Noisebeat Net Label, Natra Radio Roma. Adesso continuiamo ancora con Noisebeat. L'ultima uscita ve la faccio sentire e poi vi dico chi è Noisebeat, Nartra Radio Roma. Avez tous des sales gueules un peu comme toi. Mr. Campo è il nostro nessuno. E Mr. Brontolo il nostro KKK. E soprattutto è Nartra Radio Roma. Qui per voi Mr. Cogot Erdaglie. questo sotto la mia voce è Mild Tape da Torino, direttamente qui a Nartra Radio Roma. Nartra Radio Roma, Nartra Radio Roma si avvicina alla fine di questa puntata Net Label parte 2, tutta Noise Beat Net Label, Creative Commons Net Label. E di questo Noisy Dream abbiamo ascoltato prima anche Beast con Everything Flows Future Version. Se volete ascoltare ancora Nartra Radio Roma su Fuso Radio alle 6 venerdì, replica di questa puntata con playlist, tracklist, saluti, volati, vati tutti lo spazio. Noi Mr. Cocket vi saluta e vi dà il buonanotte, e prima di mandarvi a letto vi dice buonanotte. Deep Sound, passo, passo e chiudo, chiudo, passo, passo, passo e chiudo. Deep Sound, sound, sound, sound, sound, sound, sound, sound, sound, sound, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte.